Seconda stella a destra, questo è il cammino. L'amico immaginario. Poi la strada la trovi da te. Di Giovanni Savarese e Giancarlo Ricci. Porta all'isola che non c'è. Dicono gli psicologi che avere un amico immaginario da bambini sia normale. Serve a crescere, poi svanisce. Noi, però, i nostri amici immaginari non li facciamo andare via. Anzi, cerchiamo di incontrarli tutte le volte che possiamo, per rivederli e rivederli e rivederli ancora. Benvenuti all'amico immaginario. Il nostro primo amico immaginario, quello di cui parliamo oggi, vive in Oriente. Il suo mondo è fatto di truppe coloniali britanniche, tagliatori di teste, adoratori della Diakalì, temibili dayaki, pirati senza scrupoli che solcano i mari sui loro piccoli praos e tigri, le bellissime tigri della Malesia. È questa l'isola dove avevi promesso di portarci? Sì, Monpracia. È molto bella, potremmo starci per sempre. Sì, perché non ci lasci vivere qui con te? Dovrete tornare nel vostro regno. Anche se ora siete dei bambini, voi siete due principi. La mia sorellina ha paura. Io vi ho liberati da Brooke. Dalla paura dovete liberarvi da soli. Ma tu verrai se ti manderemo a chiamare, se quell'uomo cattivo ritorna. Nessuno vi farà più del male ora, non temete. Ma tu dici il tuo nome. Il mio nome? Sì. Sandok. Sandokan, la tigre della Malesia, dalla penna di Emilio Salgari, che ne scrisse la prima volta nel 1895 nei Misteri della giungla nera. Seguiranno altri libri, tra cui I pirati della Malesia e Le tigri di Monpracem, che pian piano popoleranno il mondo del principe pirata. Il Fido Yanez de Gomeira, Lady Mariana Gillon, la perla di Labuan, l'arcinemico James Brooke, detto il Rajah Bianco, i tigrotti di Monpracem, i cui nomi echeggiano sulle sabbie della loro piccola patria, San Bion, Giro Battle, Tremal Knight. Sudara, sudara! Kembangkan layar kita! Patan! Ai tuoi ordini, tigre. Ricordi la cannoniera inglese? Quando andammo all'assalto eri completamente ubriaco. Avrei dovuto farti impiccare. Ma io non faccio impiccare i coraggiosi. Al prossimo arrembaggio, tu sarai il primo a saltare sul ponte nemico. Ti ringrazio. Così potrò morire da uomo. Il nostro amico è sì Sandokan, ma un Sandokan diverso, più moderno di quello salgariano. È la tigre della Malesia con la faccia di Kabir Bedi, l'attore indiano che il regista Sergio Sollima scelse per portare sul piccolo schermo le avventure della tigre della Malesia. Era il 6 gennaio del 1976, giorno dell'Epifania. Le prime immagini di quel famoso sceneggiato TV ci parlavano, dagli schermi della Rai, di un mondo lontano. La Compagnia delle Indie, fondata sul finire del 1500, rappresentò per oltre 250 anni lo strumento di penetrazione economica e commerciale della Gran Bretagna nei territori dell'est asiatico, come l'India e la Malesia. Verso la metà dell'Ottocento, durante il lungo regno della regina Vittoria, la Compagnia costituiva ormai la struttura portante dell'amministrazione inglese d'oltremare e si preparava a cedere le sue prerogative alla corona, aprendo così la strada alla costituzione dell'impero britannico. Le vicende della trasformazione di un dominio commerciale in una vera e propria sovranità territoriale videro all'opera, soprattutto nei mari della Malesia, uomini spregiudicati, pronti a usare tutti i mezzi per assicurare all'Inghilterra lo sfruttamento delle risorse naturali di quei paesi. Tra questi uomini al servizio della corona, il più famoso fu certamente Sir James Brooke, il Rajah Bianco di Sarawak, che veniva chiamato lo sterminatore di pirati. Già allora, però, vi furono altri uomini, entrati nella leggenda come eroi popolari, che si opposero alla colonizzazione dei bianchi. Tra questi uomini si colloca il personaggio inventato dallo scrittore Emilio Salgari, Sandokan, un pirata di nobili origini soprannominato la tigre della Malesia. Signor Yanez, laggiù c'è qualcosa che si muove! Serrare le vele, andiamo a vedere. È un uomo, signor Yanez. Vivo? Direi proprio di sì. Sta nuotando a tutta forza. Vedi chi è? No, il viso non si vede, ma è un tipo molto robusto. Ma con poco sale in zucca, con i pescicani che ci sono, fammi vedere. Ma quello è... Sì, è Sandokan. Andiamo a prenderlo. Serrate le vele! Avanti, presto! Il regista e sceneggiatore era Sergio Sollima, amico di Sergio Leone, fino ad allora specializzato soprattutto in spaghetti western, ma non solo. Mise insieme un cast già allora d'eccezione e portò tutti su un set esotico tra India, Malesia e Thailandia. Signori, buonasera. Tra qualche istante, sul nazionale, trasmetteremo Ornella Vanoni Show. Al termine andrà in onda a zero. Lo sceneggiato TV Sandokan, 6 puntate in onda a partire dal 6 gennaio del 1976, liberamente ispirate ai 19 romanzi del ciclo indo-malese di Emilio Salgari, fu una coproduzione della RAI, della tedesca Bavaria Film e della francese Ortif. Un successo di pubblico fenomenale, con una media per episodio di 27 milioni di telespettatori. Ambientazione esotica e sfarzosa, ritmo incalzante, un cast internazionale. Fu scelto per interpretare il protagonista un attore indiano sconosciuto in Italia, Kabir Bedi, alto, muscoloso, occhi profondi. Philippe Leroy era il fido Yanez de Gomeira, la bellissima Carole André vestiva i panni della perla di Labuan Lady Marianna Gillion. I cattivi erano due attori italiani, Adolfo Celi nel ruolo di James Brooke e Andrea Giordana, lo zelante colonnello William Fitzgerald. Sergio Sollima firmò la regia e la sceneggiatura, quest'ultima insieme a Antonio Lucarelli, Giuseppe Mangione, Alberto Silvestri e Manlio Scarpelli. La colonna sonora fu affidata agli Oliver Onions, al secolo Guido e Maurizio De Angelis. Sandokan non è solo un pirata assetato di sangue e di ricchezze, non assalta le imbarcazioni inglesi per accumulare tesori, ma per vendicarsi. I suoi genitori erano nobili malesi, sterminati dagli inglesi per rubare loro il regno. Stavo pensando a mio padre. Era un uomo giusto, un sultano amato dal suo popolo. Non so neanche dove è sepolto. Credo che non dimenticherò mai l'espressione di incredulità del suo volto. Non paura, solo stupore, quando i sicari apparvero all'improvviso. Eravamo a palazzo a cena, c'era tutta la famiglia. Io, i miei fratelli, le mie sorelle, gli zii e molti altri parenti. Li ho visti cadere l'uno dopo l'altro in un lago di sangue. Tutti gridavano, chi cercava di fuggire, chi di afferrare le armi. Furono tutti sgozzati come bestie. Io ero poco più di un bambino. Un servo mi portò in salvo approfittando della confusione. Seppi poi che a pagare i congiurati erano stati gli inglesi per mettere un usurpatore sul trono. Da quel giorno l'unico scopo della mia vita è la vendetta. Una vendetta senza fine, cercata giorno per giorno, finché sulla strada della Tigre della Malesia arriva la perla di Labuan, Lady Marianna Gillon. Si innamorano quando lei ancora non sa chi ha di fronte. Quando Marianna scoprirà chi è veramente quest'uomo esotico, quando saprà che non è altri che il nemico numero uno della corona britannica in quelle terre, sarà ormai troppo tardi. Marianna sarà già perdutamente innamorata. Lui la porterà con sé a Monpracem, che da covo di pirati diventerà qualcosa di simile ad una patria, con un re e una regina. Un idillio che sarà spezzato dalla resa dei conti inevitabile tra Sandokan e Brooke, proprio a Monpracem. Un attacco subdolo, dopo aver avvelenato le acque dell'isola con un virus mortale. Poi lo sbarco delle truppe coloniali, la durissima resistenza dei tigrotti. E poi la scena più triste dell'intero sceneggiato. Sandokan porta in braccio Marianna ferita. Sono in fuga dalle truppe di Brooke nella vegetazione di Monpracem verso la costa, dove li attende un'imbarcazione e forse la salvezza. Ti amo, sai. Ti amo tanto. Oh. Quel poco che ho vissuto con te vale più di 100 anni d'amore. Oh. L'amico immaginario torna tra pochissimo. L'amico immaginario. Perché scegliere un amico immaginario come Sandokan? Beh, di certo perché è eroico, come vorremmo essere noi. Non ha paura di nulla, ha valori importanti, vive tra mare, imbarcazioni, giungle e un'isola che è da sempre sinonimo di libertà. Sandokan è uno dei nostri amici immaginari perché in lui è tutto assoluto, senza compromessi. Ha un amore assoluto per Marianna, un'amicizia assoluta con Yanez, un nemico assoluto, James Brooke. I personaggi del mondo di Sandokan, amore, amicizia, odio, incarnati da attori, nello sceneggiato di Sollima, la cui faccia è quella dei personaggi stessi. La perla di Labuan, Lady Marianna Guillaume. La pelle chiarissima, proprio come una perla. Un viso dolce, incorniciato da boccoli biondi. La purezza e la fragilità, ma del genere che nasconde una forza assoluta, quella inattesa capacità di fare scelte difficili, rischiose. Marianna segue il cuore e abbandona il suo mondo, quello dell'alta società britannica, dopo aver incrociato i suoi occhi azzurri con quelli scuri di Sandokan. Rinuncia alla vita agiata da figlia di un lord inglese e abbraccia un'esistenza pericolosa con Sandokan. Lo sceglie anche quando vede, con i suoi occhi, la violenza della sua vita e le uccisioni. Un po' lo cambia e trasforma anche Mompracen. Tu hai portato la pace in quest'isola. Da quando sei arrivata, anche la gente è diversa. Prima questo non era che un covo di pirati, di gente rozza e violenta. Ora sta diventando la mia patria. Un luogo dove la gente si ama e si rispetta. Per me è come se fossi sempre vissuta qui. Ma non senti mai la nostalgia? Non rimpiangi la vita passata, Londra? No, qui sono felice. Lady Marianna è impersonata da Carol André, all'epoca 23enne. Una lunga carriera con titoli importanti, da Morte a Venezia di Luchino Visconti a Dillinger è morto di Ferreri. Per noi sarà sempre l'amore trovato e perduto della Tigre della Malesia. Ma l'uomo d'armi, il coraggioso, non vive solo d'amore, c'è anche l'amicizia, quella fraterna, virile. Sandokan con Yanez, diversi ma vicinissimi. L'uno orientale, tutto d'un pezzo, che combatte con la scimitarra contro i proiettili. L'altro scanzonato, pieno di vizi e simpatia, di incredibile furbizia. Philippe Leroy, l'attore francese che ha prestato viso e corpo al portoghese Yanez de Gomeira, ha festeggiato non molto tempo fa i suoi 78 anni con un lancio con il paracadute. C'è un legame molto forte e raro tra l'attore e il personaggio di Yanez. Imprevedibile, guascone, intelligente e avventuroso. Aggettivi adatti sia a Leroy che a Yanez. Il portoghese con la sigaretta perennemente accesa e il sorriso accattivante è il simbolo dell'amicizia incondizionata, che ha a che fare con la stima e la fiducia. Yanez è votato a Sandokan più che alla causa malese. Lo salva in mille occasioni, è sempre al suo fianco e ha una fede incrollabile in lui. Ho finito le sigarette. Tu non ne hai, naturalmente. Se vuoi ho del better, di quello buono. Ah, buono per annerire i denti. Ragno di mare! Eccomi, signor Yanez. Ma che succede? Cos'è questo silenzio? Si è fermata la vita a Mompracen? Aspettano, signor Yanez. Due lune. Non è da un giorno che se n'è andato. E ancora non ritorna. Tornerà. Philippe Leroy, classe 1930, ha una carriera che inizia agli inizi degli anni 60 e continua fino ad oggi, tra cinema e televisione. Le ultime apparizioni sulla TV italiana sono recentissime, nella serie Don Matteo e l'Ispettore Coliandro. I nemici di Sandokan sono tanti, uno però è la sua nemesi, il suo opposto, James Brooke, il Rajah bianco di Sarawak, l'uomo senza scrupoli che mantiene il potere della corona sulla Malesia e sulla stessa Sarawak con brutalità e freddezza, pronto a qualsiasi cosa pur di affermare il proprio potere e per uccidere Sandokan. Che ne sanno a Londra di questi paesi? Che ne sanno loro di quello che ci vuole per tenerli a freno, per far sì che non ci divorino? Io sono inglese, ma sono nato in India. Qui in Malesia mi sono conquistato un regno, da solo, con le mie mani. Adesso sono il Rajah di Sarawak. Ho un trono, ma continuo a servire l'Inghilterra. Nessuno discute la sua lealtà, solo a volte i suoi metodi. Alla Camera dei Lord la maggioranza è... Non si è mai fatto niente di buono senza la disapprovazione della maggioranza. I miei metodi sono i soli possibili, almeno per ora e in questi luoghi. Persona reale, avventuriero che costruì la sua fortuna commerciando e combattendo la pirateria, James Brooke è uno di quei personaggi senza il quale nemmeno Sandokan, il protagonista, potrebbe esistere. Dove c'è il bene, deve esserci per forza anche il male. Non ho niente da dire a mia difesa, proprio niente. Solo vorrei fare una domanda a Sandokan. Se mi impicchi e mi fai sparire dalla tua vita, dopo tanti anni che ci siamo combattuti, senza tenere nessun conto la vita dell'altro, ma con uno strano reciproco rispetto, non ti sembrerà che anche una parte di te stesso è morta insieme a me? Nella notte c'è una luce, mai si spegnerà, ma buia è la strada che ci porta verso... Il bello di avere un amico immaginario che arriva dalla televisione o dal cinema o anche dai fumetti è proprio la possibilità di rivederlo più o meno quando si vuole. A differenza di quei libri che si leggono tutti d'un fiato e alla fine si vorrebbe che il racconto proseguisse per sapere al di là della conclusione cosa succede dopo. Con Sandokan questo fu possibile poco dopo la fine dello sceneggiato TV. Forte di quel successo, il regista Sergio Sollima realizzò nel 1977 Sandokan alla riscossa, La tigre ancora viva, un'operazione sull'onda della popolarità criticata in qualche misura dai fans. Sono passati 10 anni, Monprachen è persa, tornata in mano agli inglesi e affidata da James Brooke a un sultano crudele e ingiusto. I tigrotti sopravvissuti sono persi e sottomessi, Yanez vive nel ricordo delle lotte passate. Sandokan, dalla morte di Marianna, vive come un eremita nella giungla indiana e non vuol più combattere. Ci vorrà una donna, Shamila, a farlo tornare, la tigre della Malesia. Non hai bisogno di cercare le parole. Ho sentito ciò che dicevi. Hai toccato il mio cuore parlando di Monprachen. Ricordo molto bene Sendang, uno dei miei fratelli. Un eroe che è stato accanto a me in 100 battaglie. E anche te ricordo. Dal giorno che ti prese come figlia, la bambina dagli occhi celesti. E io ricordo te, Sandokan, e la tua dolce sposa, la nostra regina. Ci insegnò a leggere e a scrivere perché non fossimo inferiori agli inglesi. Era la donna più bella di Monprachen. Che dicevi a proposito di Ayrdu? È andata a Sarawak, nel regno di Brooke. Vuole radunare i tigrotti superstiti per riconquistare Monprachen. Mio padre doveva raggiungerlo lì. Trova una barca. Scenderemo lungo il fiume sino al mare. E poi raggiungeremo la Malesia. Da oggi ci sarà soltanto un nome nel nostro cuore. Monprachen. La tigre è ancora viva. Il film, ispirato al libro di Salgari Alla riconquista di Monprachen, vede nel cast di nuovo Kabir Bedi, Philippe Leroy e Adolfo Celi. Tra i nuovi personaggi, il cattivo Theotokis, interpretato da Massimo Foschi, e Jamila, con il viso dell'inglese Teresa Anne Savoy. C'è da dire che Sandokan alla riscossa non è stata l'ultima apparizione sul grande o piccolo schermo del nostro amico immaginario. Il regista Enzo Castellari, nel 1996, realizzò lo sceneggiato Il ritorno di Sandokan, che pur avendo Kabir Bedi come protagonista, nulla aveva a che fare con i film di Sollima. Non il seguito di Sandokan alla riscossa, quindi, ma un film a sé stante. E visto che con gli amici, anche quelli immaginari, si può scherzare, l'attore comico Dario Bandiera, qualche anno fa ad una puntata del Maurizio Costanzo Show, ironizzò a modo suo su quest'ultima versione di Sandokan. E Sandokan ebbe così tanto successo che lo riproposero, hanno rifatto Il ritorno di Sandokan. L'avete visto? Nessuno, 12 persone l'hanno visto. Sandokan era sempre Kabir Bedi, cioè sempre lui che aveva 208 anni, adesso con la lifting, la barba tinta, i capelli tinti, tutti, però era ancora rispettato. Sandokan, ci attaccano! Non vi preoccupate, ci penso io. Accompagnatemi che ci passo, forza. E c'era, mi ricordo c'era la principessa, era Romina Power che faceva la principessa, c'era Fabio Testi che faceva Yanez, però erano bravi, la recitazione era sentita, è stato ben fatto, recitato bene. La principessa, prendetela! No, lasciatemi. Se lo sa il sultano, vi ucciderà. La principessa... Non mi ha fatto niente, faccia di serpente. Non mi ha fatto male, faccia di maiale, prendetela! Tutti la... E il doppiaggio, mi ricordo è stato recitato in lingua in inglese e l'hanno ridoppiato, si sono ridoppiati loro stessi, Romina Power si è ridoppiata, è divenuto tipo film porno, cioè non c'era sincro assolutamente. Tra poco incontreremo uno dei protagonisti del primo Sandokan subito dopo la pausa, ma prima vogliamo ricordare un altro film in cui, seppur con abiti diversi, rincontrammo il nostro amico immaginario. Fu ne Il Corsaro Nero, sempre per la regia di Sergio Solli, ma nel 1976. Film girato con più mezzi delle esperienze precedenti in Colombia. Protagonista sempre Kabir Bedi, la bella di turno sempre Carol André, la storia è praticamente identica a quella di Sandokan. Il corsaro si innamora della figlia del suo nemico giurato, l'assassino dei suoi due fratelli, il fiammingo Van Gogh. Non un capolavoro, ma lo ammettiamo, lo riguardiamo sempre con piacere. Dietro a quel costume nero da corsaro c'è sempre il nostro amico immaginario, Sandokan. L'amico immaginario. Bentornati all'amico immaginario. Nel racconto dei personaggi del Sandokan televisivo ne abbiamo volutamente tralasciato uno. Tecnicamente un cattivo, ma non come James Brooke. Cattivo per appartenenza, se possiamo dire così. Se Sandokan è il nemico giurato dei colonialisti inglesi e della Compagnia delle Indie, lui è il campione della corona, di quella presunta superiorità alla base della dominazione britannica sull'est asiatico. Insomma, non un cattivo per vocazione, ma per situazione. Stiamo parlando del colonnello William Fitzgerald, interpretato da Andrea Giordana. Sandokan, ne ho sentito parlare anche io a Labuan, ma mi rifiuto di credere che un pirata con quattro selvaggi asserragliato su uno scoglio costituisca un serio problema per l'Inghilterra. Lei vuole arrivare a Sandokan, ma non le sembra una perdita di tempo? La mia opinione è che bisogna impostare un'azione molto più decisa. Bisogna ripulire presto questo mare perché possa diventare un mare inglese. L'Inghilterra non intende controllare l'emisfero orientale solo attraverso la Compagnia delle Indie. La Compagnia cura i suoi affari, ma è stata creata e sostenuta solo nella convinzione che la conquista commerciale di un paese precede quella politica e militare. E ora è tempo di agire direttamente e fare dei possedimenti in India e in Malesia le basi dell'impero inglese. Andrea Giordana, attore. Sì, è quello che sta dall'altra parte, non è il cattivo, sta dall'altra parte rispetto a Sandokan, tanto sia dal punto di vista proprio militare che non dal punto di vista anche sentimentale, perché sono tutti e due innamorati della stessa ragazza. Lady Marianna, auguri per il suo 18° compleanno. Ho fatto molta strada per esserle accanto in questo giorno. La ringrazio, Sir William. Mi chiamo Sergio Solli, ma il regista, chiaramente noi stiamo parlando del primo Sandokan, perché poi ne hanno fatte 3-4 edizioni, sempre con Kabir, io feci solo la prima, perché poi ebbi la sfortuna di morire dietro una grande sequoia. Io dissi a Sergio, dico, Sergio, non si sa mai, magari ci facciamo il seguito, dico, tu fammi morire dietro un albero, una mano che scende, poi ma era solo ferito, no? Invece no, non, insomma la storia di Fitzgerald si concluse lì. Lascia quella donna! Fermi! Che sta succedendo qui? Colonnello, come osa puntare un'arma contro il mio ospite? Ho riconosciuto il suo urlo quando ha ucciso la tigre. Lo stesso urlo che lanciò all'abordaggio della mia nave. Il vostro ospite, il falso principe di Shaya, non solo è un impostore, è un pirata e un assassino! anzi, il peggiore degli assassini. Sandokan, la tigre della Malesia. Ricordo che per l'occasione lui mi disse: guarda, dato che devi essere comunque, diciamo così, dalla parte dei cattivi, preferirei che tu fossi biondo. Mi fece fare biondo. E legato a questa fiction ci fu il fatto di girare 3 mesi in India e 3 mesi in Malesia, quindi con grande godimento per culturale, per andare a vedere questi mondi così lontani da noi che io non conoscevo e che mi colpirono molto. Infatti un po' di mal d'India mi è rimasta. Più che con Kabir Bedi, Andrea Giordana ebbe in quello sceneggiato più scene a tu per tu con un grande del teatro e del cinema italiano, Adolfo Celi. Celi, che in Barba al ruolo di cattivo, era in realtà un tipo molto diverso di persona, come emerge da un ricordo particolare di Giordana. Guarda, c'è un ricordo terrificante, perché noi stavamo sempre insieme. Lui oltretutto a Madras era uno stato dry, non si poteva bere alcolici, e lui soprattutto, io ero un attaccato a questa cosa, ma andava sempre a cercare a borsa nera di trovare dell'alcol, del whisky, delle cose. E un certo giorno eravamo al ristorante insieme, nel ristorante dove c'era tutta la troupe, e dato che lui è un pierino mica da ridere, a un certo punto vede arrivare l'amministratore di compagnia con la sua valigetta, si siede a un tavolo accanto a noi, prende la valigetta, un gesto meccanico, la infila sotto la sedia dove stava seduto e comincia a mangiare, a fare le sue cose. Allora Adolfo mi guarda, mi guarda con l'occhietto furbo per farmi, come dirmi, che facciamo, gliela freghiamo? E io ho capito che era una cazzata grossa come una casa, però mi... eravamo là a tanti chilometri da casa, dico vabbè, facciamo un po'. Allora gli sfidiamo questa valigetta e diciamo al cameriere, c'era un mobiletto basso lì a 2 metri che infila là dentro, e lui l'ha messa là dentro. Dopo un po' questo amministratore a un certo punto, con un gesto assolutamente automatico, mette la mano sotto la sedia per sentire la valigetta e non la trova. Sbiancato, letteralmente sbiancato, poi guarda noi e fa: ma che avete preso voi? E Adolfo dice: no, per carità, ma che c'era? Dice, oh, la mia valigetta. Insomma, saranno passati 20 minuti prima che gli abbiamo detto che la valigetta l'avevamo presa noi. Ci ha tolto il saluto, non ci ha mai più parlato, fortunatamente ci ha pagato. Ma mi ricordo che, insomma, poveraccia, ha passato veramente, perché abbiamo saputo dopo che in quella valigetta, in quel momento, c'erano qualcosa di allora, più di 300 milioni assegni, cose che doveva fare paghe il giorno dopo. Credo che gli abbiamo dato una lezione, perché noi siamo stati stronzi, però credo che lui non abbia più appoggiato una valigetta così sotto la seggiola nella sua vita. Adolfo Celi, messinese, classe 1922, è senza dubbio una delle figure più importanti del cinema italiano. Viso particolare, con uno sguardo profondo e un naso notevole, ebbe successo soprattutto nel ruolo di cattivo, grazie al personaggio interpretato nel 1966 in 007 Operazione Tuono del nemico Orbo di Bond. I ruoli che lo resero celebre in Italia sono legati a Sandokan e Amici miei. In quest'ultimo film, la sua cattiveria, quella del luminare di chirurgia, il professor Sassaroli, è spassosa. Smettila! Che cosa sono queste scene a tavola? E adesso svelta, vai in bagno a lavarti la faccia. E torna solo quando ti sei calmata. Avanti, marci! Beh, e tu? Come le permetti di trattarti in questo modo? Davanti agli occhi. Davanti a tutti. Davanti alle bambine. Calippa. A proposito di bambine, che cosa fate voi ancora alzate a quest'ora? A letto subito. 1, 2, 1, 2, march! Sì, papi! Ciao, papi! Buonanotte, papi! Ma dico, ma che famiglia è questa? Ma che razza di capo famiglia sei tu, Non molti ricordano il lungo periodo di Celi in Brasile, dove fondò il Teatro Brasileiro di Commedia di San Paolo e la compagnia di prosa Carrero Celi Otran, mentre la produzione cinematografica Vera Cruz gli affidò la regia dei film Caissara nel 1950 e Tico Tico No Fubá 2 anni dopo. Nel paese sudamericano, Celi viene ancora oggi ricordato come uno dei fondatori del cinema e del teatro brasiliano moderno. In Italia lavora con Luigi Zampa, Aldo Fabrizi, Luigi Comencini. Maschera cinica e divertente, versatile, capace di passare da Bond a Zeffirelli in Fratello Sole, Sorella Luna, da Buñuel, il fantasma della libertà, al Brancaleone, alle crociate di Monicelli. Adolfo Celi è morto a soli 64 anni per un attacco cardiaco. Una domanda che ci poniamo riguarda le ragioni di quel successo così grande, di quello sceneggiato televisivo, una domanda che non possiamo non girare a uno dei protagonisti, Andrea Giordano. Secondo me, io ogni tanto l'ho paragonato un po' a Montecristo, nel senso, non come storia, però in Montecristo c'era l'uomo vessato, tradito dagli amici e non, che poi torna con una botta di fortuna, insomma torna ricco, potente, spietato e fa vendetta, no? Il tutto sorretto però da una grande letteratura, perché Di Maio era veramente un grande scrittore. Per quanto riguarda Sandoval, è lo stesso, stiamo parlando di comunque di un uomo che è alla ricerca di una libertà, no? E quindi sono tutti in maniera diversa popoli anziché individui, ma sono gente vessata, gente che lotta per la propria libertà, per la propria individualità, per poter fare emergere il proprio io e non essere schiacciato dagli altri. Qui ci sono personaggi che incantano il pubblico, perché tutti noi siamo un po' vessati da qualcuno, dal capo ufficio, dal capo redattore, dal regista, no? E allora, ecco, sono quei personaggi che veramente entrano nello spirito collettivo e ci si immedesima molto. Trovo che il motivo principale del successo sia questo, perché poi, voglio dire, non è che noi abbiamo fatto un colossal con navi che salpavano, che navigavano, solcavano i mari. Avevamo due specie di navi sempre più o meno ferme, le quali giravamo, ma veramente con i mezzi che potevano essere messi a disposizione in quel momento, che erano abbastanza relativi per un colossal come avrebbe potuto anche essere il Sandokan. Difficile identificare la miscela per un successo, ancor più difficile per uno di quei successi che fissano una storia, un personaggio nella cosiddetta memoria collettiva. A Giuseppe Di Piazza, direttore di Sette, il magazine del Corriere della Sera, abbiamo chiesto come si spiega il successo così durevole del Sandokan di Sollima. La scelta del protagonista è stata felicissima. Kabir Bedi era un esempio di maschilità selvaggia, di eroismo totale, era un Garibaldi d'azione, ancora più d'azione, straordinario veramente Kabir Bedi, la fisicità proprio davanti alla macchina da presa, le ambientazioni molto esotiche con questo indianismo, diciamo, di Chris Malesi e di cibi strani, e la bellezza della ragazza, insomma era tutto un insieme di cose, Janez che aveva il suo grandissimo fascino, insomma era perfetto, era quella voglia di esotismo e di avventura e di nobiltà che c'è nei libri di Salgari, c'è tutto scritto lì. Gli amici immaginari, anche quelli di questo tipo, vivono soprattutto nei ricordi. Certo, possiamo rivederli, ma è proprio nella memoria che vivono come in una sorta di habitat naturale. Nella memoria, soprattutto, di quando si è bambini. Io ricordo il Sandokan che leggevo ai tempi della scuola media. E sì, volevo essere Sandokan più che Janez. E poi volevo anche essere Tremal Naik, personaggio di seconda fila ma assolutamente fascinoso anche lui. Ero sicuramente più un tigrotto della Malesia che non un intellettuale prestato alle rivoluzioni malesi come Janez. Sì, quegli anni erano gli anni del mito, si giocava, io ricordo i giochi nel cortile di scuola a Sandokan, ognuno aveva una parte, era molto molto bello, e poi c'era la perla di Labuan. La memoria, forse distorta, ci fa ricordare quella televisione con un pizzico di nostalgia che sfiora il luogo comune, la TV di una volta. Ma manca la qualità di quella TV, sì, c'erano grandi autori che si prestavano, poi non c'era grande scelta intorno, quindi la televisione era in questo totalizzante, quando si fece La Cittadella divenne fu un evento per tutti, Il Segno del Comando, cioè degli straordinari lavori di cinematografia applicata alla televisione con una serialità iniziale già molto interessante in quegli anni. Certo, adesso è una iperproduzione, c'è una grandissima concorrenza, si lavora in tempi strettissimi, si lavora anche adesso con ottimi registi e ottimi attori che si prestano a fare le fiction televisive, quindi io non ho assolutamente nessuna snobberia nei confronti della fiction contemporanea, anzi ritengo che spesso siano prodotti di altissima qualità. Certo, mi manca un po' quel fascino ingenuo e assolutamente candido che aveva la televisione di quegli anni, adesso è una macchina da guerra enorme e noi spesso veniamo stritolati da questa macchina. E la musica, si sa, è legata a doppio filo alla memoria. La musica evoca memoria in modo quasi automatico. Una melodia, un giro armonico e i ricordi affiorano come fotogrammi, prima ancora che ne siamo pienamente coscienti. Certe canzoni sono capaci addirittura di richiamare pezzi di memoria che nemmeno sapevamo più di avere. Le note di una spinetta, ad esempio, non possono che farci tornare in mente il viso della Perla di Labuan. Della musica, o meglio, della colonna sonora di Sandokan, parleremo tra pochissimo. Parleremo degli Oliver Onions, all'amico immaginario. L'amico immaginario. Ci siamo lasciati parlando di musica, di quelle suggestioni sonore che accompagnano il ricordo del nostro amico immaginario di oggi, Sandokan. La sigla della trasmissione, le melodie legate ai personaggi come Sweet Lady Blue, canzone di Lady Marianna, musiche inconfondibili anche oggi, firmate da un duo che in quegli anni e non solo lasciava la propria impronta su film e telefilm. I nomi: Guido e Maurizio De Angelis, in arte gli Oliver Onions. C'è un giornalista italiano che li conosce molto molto bene, è Franco Zanetti. Sono due fratelli, musicisti entrambi, oggi anche produttori cinematografici e soprattutto di sceneggiati per la televisione. Sono, diciamo, laziali di origine, adesso abitano a Monteporzio Catone e hanno cominciato nel lontano 63 pubblicando il primo 45 giri, addirittura si trovava un vecchio macinino. Il nome l'hanno scelto dal nome di un nome e cognome di un romanziere inglese, e lo scelsero perché la ragione è che queste parole si pronunciavano così come si scrivono, erano facili da pronunciare. Autori di colonne sonore di tanti film come quelli della coppia Bud Spencer e Terence Hill, solo per citarne alcuni, gli Oliver Onions rimangono nella memoria televisiva di un paio di generazioni proprio per le sigle della TV. Ancora Franco Zanetti, giornalista. Loro hanno fatto anche una sigla di Zorro, hanno fatto All the Way l'anno dopo Sandokan, hanno fatto Spazio 1999 nel 79. Invece la colonna sonora, quella di Sandokan, che pure non è stato il loro più grande successo commerciale, perché il più grande successo commerciale è stato di un Buggy, è quella che probabilmente li ha consegnati alla piccola storia della musica leggera italiana, perché è stato un successone non solo di vendite ma anche di popolarità. I bambini che la cantavano e forse la cantano ancora adesso, eccetera. Quel periodo, gli anni 70, sono stati un grande periodo di sigle televisive, di colonne sonore. Loro, fra l'altro, sono sempre stati piuttosto restii a presentarsi televisivamente, non si piacevano, non andavano in giro volentieri, tanto che la loro ultima comparsa dal vivo, che è stata una sorta di reunion, anche se loro continuano a lavorare insieme, è avvenuta nel 2007 a Lucca. Ti do un'ultima curiosità: i fratelli De Angelis, Guido e Maurizio De Angelis, sono gli autori di I'm Football Crazy, che è l'unico 45 giri inciso da Giorgio Chinaglia, il calciatore. Provate ad andare davanti ad un gruppo di persone e a chiedere loro se ricordano la sigla dello sceneggiato, un misuratore di popolarità che dura nel tempo, radicata nel ricordo collettivo. Noi siamo scesi per strada con l'intenzione di provare a capire cosa rimane oggi di quel nostro amico immaginario tra la gente. Cosa è rimasto più impresso nella memoria, nelle orecchie, quali sono le suggestioni sopravvissute per qualche decennio da quel lontano 1976. Intanto ero un bell'uomo, allora parlo di 30 anni fa. Kabir Bedi affascinava in quell'epoca. Devo ammettere che piaceva più l'attore che non tutte le vicende, seppure simpatiche e avventurose. L'attore era veramente affascinante. Mi piaceva molto, aveva quel che di selvaggio. E poi mi piaceva molto, come si chiamava quell'altro, Yanes. È stato un bel film, molto molto seguito. No, un film da telenovela è stata, che non finiva mai. C'erano dei bambini che cantavano Sandokan, Sandokan. Tutto l'insieme della favola. Bellissimo l'attore, bellissime le attrici. C'era una cosa che le piaceva più delle altre, non so, l'ambientazione, il posto. Il posto, sì. Diciamo così, la foresta, gli animali, quella, la scena della tigre. Quando salta con la tigre, con la spada, è stato un simbolo degli anni 70, diciamo. C'era la perla di Labuan, c'erano dei posti bellissimi. Lui che era proprio un guerriero, un personaggio mitico. E poi lei molto femminile, molto dolce, Marianna. Poi mi ricordo la scena della tigre quando lui salta, che poi la prende con il pugnale, mi sembra, no? Kabir Bedi che va contro una tigre. Mi piaceva perché era una storia romantica, poi mi piaceva lui. Lui è sempre bello. Insomma, il ricordo c'è e come, ma oggi la TV potrebbe dar vita a un fenomeno simile di così larga diffusione o il paragone improponibile troppe le differenze? Secondo Tommaso Labranca, scrittore, autore televisivo e radiofonico, la risposta è no. Una differenza tra l'oggi e quello che era ieri era appunto l'attesa. Prima c'erano le attese delle cose, oggi arrivano senza che ce ne accorgiamo praticamente. Per cui annunciato, foto rubate sul set, sarà un successo. Quindi la sera della prima puntata eravamo tutti davanti al televisore, decisamente in bianco e nero, ad assistere alla sigla degli Oliver Onions, e finalmente poi sono apparse queste immagini con Sandokan. Kabir Bedi, poi noi ci siamo innamorati tutti di Kabir Bedi, l'abbiamo considerato uno di un italiano, però poi veniva, che so, Asha Puzzi, la cantante indiana che poi era esplosa in quel momento, e diceva: come mai in Italia è così famoso? In India non è che uno dei tanti attori, ma noi non sapevamo che c'era quella industria cinematografica in India, appunto c'era Bollywood, c'erano produzioni continue di film. Per noi era comunque un grande attore. Nota però che eravamo già in un periodo in cui i libri di Fagari non li leggeva più nessuno, già considerato vecchio, quindi arrivavamo impreparati, sapevamo vagamente qualcosa. Ma un'altra grande differenza era che oggi tutti sono stati almeno due o tre volte al ristorante indiano e pensano di avere una cultura sull'India generale, no? Oppure hanno visto qualcosa di Bollywood. Ai tempi l'India era praticamente l'ultimo dei satelliti di Saturno, cioè non si sapeva nulla, per cui potevano dirci qualunque cosa e noi ci avremmo creduto. Di certo il Sandokan di Solliman non era un prodotto televisivo raffinato, ma ricco di ingenuità e di semplicità. Forse però questo fu un punto di forza, non di debolezza. Ancora Tommaso Labranca. No, anzi, era un elemento positivo, perché alla fine, cioè, il risultato era ancora simile. Tu pensa quanto non eravamo evoluti, perché l'effetto era ancora quello che potevano avere i libri originali, appunto, di Salgari sui lettori coevi di Salgari, cioè creare la meraviglia, per di più poi scritta senza essere stato sui luoghi. C'era una battuta di Grillo che mi ha sempre fatto molto ridere, quando faceva ancora il comico naturalmente, che era: Salgari non si è mosso a Torino e ha scritto libri sull'India misteriosa, la Carrà è andata a New York e ha scritto un libro sulla piadina romagnola. E questa battuta esprime perfettamente quello che siamo diventati oggi. cioè una finta, un finto essere cosmopoliti, che poi alla fine vedi che non è vero. Un esercizio bisogna dire che abbiamo svolto anche attraverso la pagina Facebook dell'Amico Immaginario. I ricordi sono focalizzati sul protagonista, Kabir Bedi, sull'uccisione della tigre con salto spettacolare, sulla canzone storpiata da bambini con versi non ripetibili. E poi la morte di Marianna e lo stratagemma di Sandokan per scappare, se lo ricordate, dalla nave di Brooke, fingendosi morto e facendosi gettare in mare avvolto in un sudario. Molti di questi ricordi possono essere ritrovati facilmente, basta un computer, una connessione a internet e un motore di ricerca. 77 video, quasi tutti con il ruggito della tigre in apertura, è il numero di risultati su YouTube se si cerca la sigla dello sceneggiato TV, 2150 in totale i video su Sandokan, tributi montati dai fan, ma soprattutto edizioni della serie TV in quasi tutte le lingue del mondo. Il nostro eroe diventa così The Tiger of Malaysia, Tigrul din Malaysia e il Tigre della Malaysia. Su Google sono 1.050.000 i risultati quando si digita la parola Sandokan. Parte fa riferimento alla lotta alle zanzare e alla camorra, ma per lo più si va diretti in Malesia. Sandokan.it racconta il mito fra libri, viaggi e TV. Sandokan.org ha tutto su Kabir Bedi in tedesco. Poi c'è quello dedicato al papà dell'eroe, www.emiliosalgari.it. Tra le foto, 56.000 è l'attore indiano a farla da padrone, come nei video, quando canta stentatamente la sigla storica di ritorno dall'Isola dei Famosi. Noi vogliamo cantarla tutti insieme col karaoke! Vai! Più forte! Oppure è intervistato da Al Jazeera. Circa 30 anni fa sono stato molto fortunato. La serie TV italiana a cui ho partecipato divenne la cosa più importante mai successa sulle televisioni di quel paese. Fu vista da 30 milioni di persone, in un paese di 60 milioni a quel tempo, impensabile anche oggi. E anche se poi ho fatto per la TV italiana un gran numero di film, miniserie, telefilm, rimarrò Sandokan per sempre. Sandokan forever, forever. Sandokan ha 5 pagine personali su Facebook e migliaia di fan, ma navigando in rete si scopre anche che è il miglior biglietto da visita per il turismo malese. Ogni sito o articolo che racconti di questa parte del mondo cita l'eroe salgariano. L'incontro di oggi è finito, non resta che ricordarvi la pagina Facebook dell'Amico Immaginario per esprimere i vostri commenti e per trovare materiali sui nostri amici. Per esempio, il link alla serie TV completa, gratuita, in una pagina della Rai. Al prossimo incontro con un altro Amico Immaginario.